fare di questa mia anima, che pensi di fare, dove la metterai? Le onde del mare e quest'aria gelida, che pensi di fare, la dimenticherai? E vorrei intervenire, non stare seduto mai, prenderti la mano e dirti: io sono cresciuto ormai. Il vento mi picchia, la mia mano trema, sai, che pensi di fare di questo uomo in pena? Fallo vivere e fallo svegliare, con uno spillo graffiagli il cuore, una lezione che non può più scordare. Poi dalle ceneri si alzi e dica: so amare. Il caldo è bestiale, situazione un po' ipocrita, nel forno c'è sempre un dolce per rassicurare, un vulcano tranquillo, la sua pancia isterica, nell'aria uno stormo grida, si sta per svegliare e vorrebbe partire, lanciarsi nel buio, guardare lontano e dire: arrivo futuro. Volare e cadere, trovare una meta, che pensi di fare di questa tua preda? Fallo vivere e fallo svegliare, con uno spillo graffiagli il cuore, una lezione che non può più scordare. Poi dalle ceneri si alza, so amare. Fallo vivere e fallo svegliare, con uno spillo graffiagli il cuore, una lezione che non può più scordare. Poi dalle ceneri si alzi e dica: so amare.